It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Take a look at the 5 and 10. Mercoledì 29 dicembre, bentornati e bentornate a tutte e tutti su Liberi Dentro di Radio TV, o se siete nuovi, benvenuti. Noi siamo un programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, sulle nostre emittenti che sono Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E io sono sempre Caterina, con Antonella Cortese che oggi ha un compito importantissimo. Ciao Antonella, bentornata. Ciao, ciao a tutte. Sì, il compito è molto importante perché oggi lanciamo gli auguri a apriamo la nostra solita finestrella di auguri e di saluti e oggi ce li portano Laura Russo e Franco Bonisoli, che conducono una rubrica che voi conoscete benissimo, Yoga Ratna, un percorso di libertà. Ascoltiamo che cosa ci dicono. Buongiorno, in questo periodo che si avvicina al Natale vogliamo fare anche noi i nostri auguri a tutti gli amici di Liberi Dentro e di Radio TV e a tutte le persone ristrette nel carcere della Dozza e delle carceri dell'Emilia Romagna. Cosa augurarci? Noi ci auguriamo insieme, reciprocamente, di poter continuare questo percorso, un percorso che vogliamo fare insieme a voi, facendovi compagnia e condividendo un cammino di liberazione interiore. E non solo interiore. E l'importante, ricordiamoci sempre, di avere fiducia in noi stessi e ricordare ed essere testimoni che qualunque cosa, qualunque reato possa aver fatto una persona è e rimane una persona con la propria dignità, con la propria ricchezza che va salvaguardata. E dobbiamo essere prima di tutto noi a crederci. E con questo vi salutiamo, come sempre, con un saluto di pace. Om Shanti. E dopo gli auguri di Laura e Franco, che ringraziamo tantissimo, sono parte della nostra redazione, grandi collaboratori, ritorniamo sulle nostre notizie del giorno. La gestione del Covid-19 nelle prigioni europee è una notizia che traggo dall'emittente televisiva Deutsche Welle, tedesca, perché appunto l'European Data Journalism Network, attraverso la collaborazione di 11 redazioni giornalistiche coordinata dalla Deutsche Welle, ha raccolto dati in 32 paesi europei che rivelano quanti casi, quanti decessi sono stati riportati nelle carceri, come sono stati gestiti i piani vaccinali e quali misure sono state prese per frenare la diffusione del virus. Caterina, ti faccio una domanda che forse è un po' scontata. Sappiamo che molte carceri sono sovraffollate e senza la possibilità di applicare le misure di distanziamento sociale. Quanto ha inciso tutto questo nella gestione della pandemia? Guarda, provo a sintetizzare quanto ha detto Filippa Alves da Costa, che è la consulente sanitaria del programma Health in Prisons dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio nelle carceri è stato simile a quello corso all'interno delle strutture residenziali, come le case di cura o i centri di accoglienza, quindi un rischio molto molto elevato. I numeri dei detenuti, oltretutto affetti da altre patologie, HIV oppure tabagisti o consumatori di droghe, hanno un alto rischio di contrarre il Covid. Secondo l'OMS, l'emarginazione, poi, e la povertà e anche il difficile accesso alle cure sanitarie colpiscono queste persone molto prima dell'incarcerazione. Quindi le condizioni trovate in carcere non fanno altro che peggiorare la loro situazione sanitaria. Nei penitenziari, oltretutto, la diffusione della pandemia non colpisce soltanto i detenuti e il personale di sorveglianza o anche di assistenza, ma anche la comunità circostante. Di conseguenza, se non si proteggono le carceri, non si protegge la comunità. Solo per farti un esempio, Antonella, sai che negli Stati Uniti, dove nel 2020 il virus si è rapidamente diffuso, diversi studi hanno rilevato come le epidemie nelle carceri si diffondano nella popolazione circostante. Lo studio inoltre collega l'incarcerazione di massa, che è molto, molto più accentuata negli Stati Uniti che in altri paesi, a più di 500.000 di casi aggiuntivi di Covid-19 dentro e fuori i penitenziari. Quindi c'è uno stretto legame tra questi due rapporti. Sì, poi sappiamo anche che è arrivato il lockdown come prima risposta, no, a tutta questa devastazione. che ha contribuito a, in qualche modo a evitare il peggio, secondo te, nelle carceri? Guarda, anche qui ci aiuta uno studio condotto da alcuni ricercatori di Barcellona su i paesi principali che hanno applicato le regole da lockdown subito dopo l'inizio della pandemia, e qui le conseguenze sono quelle che un po' tutti forse ricordiamo, ovvero le visite immediatamente interrotte o severamente limitate quasi ovunque, in molte carceri tutte le attività di rieducazione, per non parlare dello sport, la scuola, le attività lavorative interrotte, per non parlare della durissima regola dell'isolamento per i casi di positività. In realtà, così facendo, con l'isolamento per motivi di emergenza, è stata stravolta una regola fondamentale. Sto parlando delle regole di Nelson Mandela, adottate dall'ONU, e delle regole minime per il trattamento dei detenuti, che affermano che l'isolamento deve essere usato come ultima ratio e per il più breve tempo possibile, comunque non superiore ai 15 giorni. Senti Caterina, e che dici del piano vaccinale? Perché le vaccinazioni sono state poi introdotte nelle carceri. Guarda, con i problemi strutturali che le carceri hanno, e quindi ad aggravare già la situazione complicata, un ritorno alla normalità, per così dire, nelle carceri è dipeso soprattutto dalla introduzione, ecco, delle vaccinazioni, come anche nel resto della società. Non tutti però i detenuti hanno ricevuto la loro dose di vaccino, e una delle ragioni di questo ritardo è che la maggior parte dei paesi europei purtroppo non ha incluso i detenuti nelle categorie prioritarie per dei piani di vaccinazione. Molti di questi paesi non li ha neppure nominati. Ci sono state indicazioni importanti, tuttavia, da parte delle organizzazioni sovranazionali indipendenti sul fatto che i detenuti dovrebbero avere priorità, e molti attribuiscono questa situazione a una mancanza di volontà politica, anche se comunque dobbiamo ammettere che il nostro paese è stato tra i più, ecco, quelli con una marcia in più su questo. In Italia la decisione di dare ai detenuti l'accesso prioritario ai vaccini è stata una decisione amministrativa tra febbraio e marzo di quest'anno, presa senza suscitare un grande dibattito pubblico. Lezioni per il futuro ce ne lascia questa esperienza della pandemia? Secondo gli esperti sì, ecco, affermano che i paesi devono ridurre drasticamente la loro popolazione carceraria per essere preparati a situazioni simili come le pandemie in futuro. Il Covid, secondo gli esperti, dovrebbe essere il campanello d'allarme per investire in un miglioramento delle condizioni detentive e per ridurre il peso della misura carceraria. E con queste parole, ancora una pausa musicale, ci rivediamo tra pochissimo. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. Beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once more. E rieccovi, bentornati, sempre il nostro programma Liberi Dentro di Radio TV è con voi e parliamo questa volta, Antonella, con te di giornalisti. Sì, parliamo di giornalisti perché qualche giorno fa ho letto un articolo di Francesca Mannocchi, che è una giornalista bravissima tra l'altro. Faceva riferimento a Reports on Frontier, che ha pubblicato l'ultimo rapporto annuale sugli abusi commessi contro i giornalisti. L'organizzazione monitora lo stato di salute dei giornalisti nel mondo dal 1995 e quest'anno il referto è stato pessimo. Sono 488 i giornalisti detenuti in tutto il mondo, il 20% in più dello scorso anno, il numero più alto di operatori dei media incarcerati da 20 anni a questa parte. E questi dati si riferiscono a paesi specifici? Guarda, Caterina, i dati, si legge proprio nel report, si devono principalmente al risultato di 3 paesi, la Cina con 127 giornalisti detenuti, un numero che si deve anche alla legge sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong, che un tempo era modello per il rispetto della libertà di stampa nella regione e grazie proprio al suo stato speciale che ha perso, ma dove invece negli ultimi mesi sono stati arrestati almeno 10 cronisti. Poi c'è il Myanmar, dove lo scorso febbraio i militari hanno ripreso il potere con un colpo di stato, dove sono detenuti 53 giornalisti. E poi la Bielorussia. Il paese governato da Alexander Lukashenko, dopo la controversa rielezione, lo scorso anno ha imprigionato 7 persone e quest'anno addirittura 32. Mai tanti incarcerati, mai tante donne, pensa che sono 60, un terzo in più del 2020. Notizie pessime e notizie che solo apparentemente sembrano buone, ma da leggere in prospettiva, perché calano i giornalisti uccisi, e questa è la buona notizia, che sono 46, e bisogna ritornare al 2003 per trovare un altro anno con meno di 50 giornalisti uccisi. Lo dico, forse sembra banale quello che sto dicendo, ma questo almeno del calo, io sono una giornalista come te, quindi per categoria dobbiamo dirlo, è almeno una buona notizia. Sì, è una buona notizia ovviamente in assoluto, però calano i morti perché calano le tensioni su alcuni fronti, è meglio così ovviamente, ma calano i morti anche perché ai giornalisti è sempre meno consentito di recarsi su quei fronti di guerra, conflitto, ingiustizia e documentarli. E calano i morti perché non andare in una zona di conflitto è una forma, come ricorda lo stesso Christophe Deloire, direttore del RSF, di autocensura, che ha portato i giornalisti ad andare meno in territori pericolosi. E perché si va di meno? Si va sempre meno anche in conseguenza dei nuovi equilibri geopolitici, in cui i regimi autoritari non sono sottoposti a pressioni sufficienti per frenare le loro repressioni. E come dire ancora una volta come funziona il doppio standard dell'Occidente, pronto a fare affari con i regimi autoritari, ma non altrettanto pronto a puntare i piedi in difesa dei diritti umani e dell'informazione, ovviamente. E voglio ricordare che qualche decennio fa Vassili Grossman raccontò le vicende del secondo conflitto mondiale sul fronte est europeo come inviato sociale di Krasnaya Zvezda, che è la Stella Rossa, è appunto il giornale russo. E scrisse cercando di liberare i lettori dalla retorica della propaganda. I suoi taccuini hanno resistito nel tempo e hanno resistito alle censure e si attenevano a un principio che Grossman annota così: chi scrive ha il dovere di raccontare una verità tremenda e chi legge ha il dovere civile di conoscerla, questa verità. Quindi non solo il dovere civile di raccontare, ma anche il dovere civile di riconoscere, ed è alla comunità che fa danno il potere quando censura, punisce, incarcera i giornalisti, perché è nello spazio di consapevolezza della comunità che si costruisce la coscienza della memoria e la capacità di distinguere il vero dal falso. Per rimanere un po' in tema musicale, ascoltiamo Talking Heads, Road to Nowhere, invece noi speriamo che ci sia sempre una strada precisa per tutti. E dopo ascoltiamo di nuovo Arianna Augustoni e Alessandro Tomasi con Cucinare al fresco. A più tardi. E rieccovi, bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Liberi Dentro Du Radio TV. Continuiamo da ieri la nostra intervista su Cucinare al Fresco, questo bellissimo progetto editoriale che ci stanno raccontando Arianna Augustoni e Alessandro Tommasi. Arianna, lo ricordo, è la giornalista e anche coordinatrice del progetto, e Alessandro, Art Director. Arianna, ti chiedo, come mai, la curiosità proprio subito mi è venuta quando penso a progetti di cucinare in sulla cucina in carcere, si pensa ai laboratori pratici. Invece voi avete scelto un ricettario. Motivo? Perché non so cucinare, non mi piace cucinare, e quindi la soluzione doveva essere una cosa alternativa, qualcosa che sapessi fare. Il problema è questo, che i ragazzi hanno iniziato a raccontare le loro ricette, i loro piatti, e io continuavo ad assimilare queste informazioni. Però poi ad un certo punto ci siamo detti, ma scusate, me le raccontate oggi, magari ce ne dimentichiamo la settimana prossima. Per cui iniziamo a fare dei brogliacci e scriviamo le vostre idee e le vostre ricette. E quindi partita appunto questa idea di raccogliere le informazioni, in che modo? In un ricettario, era la cosa più facile. Ciò nonostante loro non demordono, nel senso che vorrebbero fare dei laboratori pratici. E fortunatamente dopo 3 anni di attività, perché ormai chiudiamo il terzo anno, siamo riusciti a entrare in un progetto attraverso il quale una scuola di formazione professionale di Como, il CFP di Monte Olimpino, organizzerà un corso per i detenuti, con priorità ovviamente ai miei redattori, perché finalmente riusciamo a premiarli e a trasformare quelle che sono le loro idee in piatti, in situazioni pratiche. Detto questo, però, loro nelle stanze di detenzione hanno la possibilità di preparare i loro piatti, per cui qualcuno arriva durante la lezione con dei biscotti, con dei dolci, soprattutto da degustare insieme. Sai che ho una curiosità, nel senso che sia io che te, che Alessandro, ma anche chi ci ascolta dalle camere detentive, lo sa bene che gli ingredienti a disposizione a volte sono pochi, ma quali sono gli ingredienti attitudinali? Cioè qual è la predisposizione per far funzionare il fatto di fare un ricettario di questo tipo? Allora, farine di qualsiasi tipo, quelle che possono entrare, l'aglio, e sembra un must, in tutti i piatti finisce l'aglio, Poi cosa mi viene da dire? Vabbè, pasta più del riso. Il riso è un ingrediente che piace di più alle donne. È una curiosità questa. I sughi, quelli più piccanti, quindi peperoncino, anduia, tutte queste cose che in una cucina light, come tante persone tentano di fare a casa, non si trovano. E qui invece hanno questi ingredienti dai sapori forti e, come diceva Alessandro, c'è forte multietnicità e quindi ti puoi immaginare abbinamenti pazzeschi che vengono fatti e proposti. Ti faccio una domanda un po' piccante, perché quando si ha a che fare con le istituzioni del carcere, laboratori di questo tipo a volte per motivi anche strutturali non vengono consentiti. Quindi ti chiedo se la direzione e le istituzioni locali di Como vi hanno aiutati a realizzare questa iniziativa e se siete riusciti a fare rete. All'inizio è stato difficilissimo. Avevo fortunatamente il precedente direttore che mi ha sostenuta e mi ha dato anche dei suggerimenti. Le istituzioni comasche all'inizio non ci credevano, tant'è che non hanno mai manifestato interesse. Adesso, dopo una produzione editoriale importante, credo abbiano compreso l'importanza del nostro percorso, perché, come dico sempre, non è tanto un mio vezzo andare e presentare i nostri ricettari, ma a me interessa andare e presentare questi ragazzi che effettivamente da 3 anni, e sai meglio di me che in carcere non è facile avere detenuti per tutto questo tempo e con una frequenza costante, hanno deciso di mettersi in gioco, di rispettare quelle che sono le mie intenzioni e i miei obiettivi e hanno sempre lavorato con grande serietà, grande, grande, grande. Quindi puoi dire che c'è stata continuità in questi 3 anni? Assolutamente sì. Se ti dico che durante il lockdown la mia preoccupazione, non solo mia, anche quella di Alessandro, era quella di dire adesso come facciamo, perché avevamo in mente già un'idea, con le videocamere abbiamo dato le disposizioni e questi hanno lavorato in modo autonomo e lo hanno fatto in modo ineccepibile. Incredibile. Quanti sono i detenuti coinvolti? Tu pensa che all'inizio avevo delle classi da 30 persone. Tieni tu 30 persone che cerchino di lavorare in sintonia, ma soprattutto che si passano educatamente, correttamente la parola, che scrivano, che organizzino il lavoro. Ce l'abbiamo fatta. Adesso purtroppo le restrizioni Covid mi impongono al massimo 6 persone. Quindi capisci che è tutto diverso, però ci stiamo organizzando. Alessandro, ti chiedo qual è il tuo ruolo nel team grafico. Allora, diciamo che io mi occupo di dare proprio la linea generale di tutto il progetto, quindi l'aspetto grafico. Normalmente do anche poi quella che si chiama ripassata finale, nel senso che una volta che l'elaborato è stato corretto, rivisto, strarivisto, perché siamo molto meticolosi su questo, poi parliamo anche di fogliazioni importanti, perché facciamo elaborati anche da 70-75 pagine, quindi non è che siano proprio dei fogliettini, insomma, quindi ci va posta molta attenzione. Finito poi di impaginare tutto quanto, do sempre un'ultima controllata e, come dicevo prima, comunque molta attenzione all'aspetto fotografico del tutto. Poi con Arianna decidiamo sempre la copertina da mettere su ogni elaborato, perché anche quello è molto importante, perché è un po' la chiave di lettura di tutto quello che troveranno all'interno del magazine. Tieni conto che poi abbiamo fatto anche dei monotematici, per cui abbiamo fatto degli approfondimenti proprio su, che so, prodotti da forno, biscotti, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono quelli dedicati alle festività e quindi anche lì cerchiamo sempre poi di dare una nota di differenziazione di tutti i prodotti che buttiamo fuori, pur mantenendo sempre una corporate identity, che è importante, perché comunque cucinare al fresco è ormai un marchio di fabbrica, insomma, di tutto quello che facciamo. E naturalmente queste pubblicazioni poi finiscono anche nelle mani dei loro redattori, vero? Assolutamente sì. Penso che immagino la loro soddisfazione la prima volta che hanno avuto tra le mani il primo elaborato che abbiamo fatto. Penso che sia stata la coronazione proprio del sogno, del loro lavoro svolto in tutto quel periodo. Insomma, averlo, fremevano. Mi ricordo che Arianna diceva: non stanno più nella pelle per ricevere questo benedetto elaborato. Quindi, insomma, sono belle soddisfazioni anche per noi che li aiutiamo a realizzare questi progetti. Grazie Alessandro, noi ci salutiamo, il tempo ci porta sempre alla fine delle nostre chiacchierate, ma c'è un pezzo musicale, abbiamo i Fool's Garden con Lemon Tree e ci rivediamo domani. Grazie e a domani anche a voi. I'm sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing! Sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation. I don't want to sit on a lemon tree, stepping around in the desert. E anche oggi siamo giunti ai saluti di fine puntata, in cui vi ricordiamo ciò che segue ancora per mezz'ora, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. E oggi, che è mercoledì, lo sapete meglio di me, c'è l'ASL con una puntata in replica, ve lo dico, sulla gestione delle emozioni. E ascoltatela, scriveteci cosa ne pensate, redazione liberidentro@gmail.com, sono i nostri contatti anche per qualsiasi altra cosa vogliate comunicarci. Siamo sempre lieti di leggervi e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Botta, e noi ci rivediamo domani. Ciao a tutti! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. It's glistening once again.